cattiveria della gente seria. Cosa fai stasera? Perché non vai in galera? Non c'è atmosfera, ma per ora si spera. Una scossa, una candela, una bugia vera. Non cambia niente, no, nessun presente. Se stai sul podio, rimani un perdente. Il prossimo passo, paga un veggente. Un nuovo progetto, usa la mente. A qualunque ora può succedere di tutto. Per parecchio tempo la gente gira il lutto. Nessuno riposato è sempre distrutto. Per un grande spacco mettiamo lo stucco. Parli come mangi, a volte hai crampi. Ti avveleni col risotto agli scampi. Riscaldamento globale con i lampi. A inquinare siamo sempre in tanti. Rimarrai contento? Oppure no? Rimani qua dentro? Oppure no? Quello che mi dici? Io non lo so. Quello che ascolti? Io non lo so. Come ti comporti? Questo lo so. Ve ne siete accorti? Forse un po'. Volete una mano? Meglio di no. Ho molti impegni che non manterrò. Storia moderna, rapina o quaterna. Il poco impegno e chi si lamenta. Non c'è nessuno che però si ingegna. Per fare un quaderno si taglia la legna. Il secchio a 3 metri ma ho il braccio corto. Assicuro la vita ma già sono morto. La mano trema anche senza il morbo. Per ciò che vedo io mi sconvolgo. Io non animo, esamino le cose. Le novità non sono meravigliose. Le nuove strade sono già pericolose. Tutte le curve rimangono scivolose. Tu non connetti raggi ultravioletti. Sei messo in mano a personaggi inesperti che ti privano di tutti gli aspetti. Se stai sbagliando questo non l'ammetti. Io cambio pagina mentre qualcuno immagina un posto migliore e il sole che illumina. Cammini in macchina, sul vetro è una patina. Nessuno ti aiuterà quando si esagera. Respira i gas della fabbrica e vattene. Domani è un altro giorno per combattere. Indossa l'uniforme, l'ora d'aria nel tuo carcere. Impara che pagando non si può mai vincere. Rimarrai contento? Oppure no? Rimani qua dentro? Oppure no? Quello che mi dici? Io non lo so. Quello che ascolti? Io non lo so. Come ti comporti? Questo lo so. Ve ne siete accorti? Forse un po'. Volete una mano? Meglio di no. Ho molti impegni che non manterrò. Rimarrai contento? Oppure no? Rimani qua dentro? Oppure no? Quello che mi dici? Io non lo so. Quello che ascolti? Io non lo so. Come ti comporti? Questo lo so. Ve ne siete accorti? Forse un po'. Volete una mano? Meglio di no. Ho molti impegni che non manterrò. Dashini eno sna kaina nam motto sotat na golendro tiru e per nas do sede.